I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Deborah Rosciani. Tutta la settimana concentrata sulle negoziazioni fra Grecia ed Eurogruppo, i mercati hanno mostrato di voler garantire fiducia di fondo sia alla tenuta dell'Unione Monetaria sia ai vari tentativi di mediazione fra Tsipras e gli organismi europei. Il governo greco ha formalizzato la richiesta di estensione per altri 6 mesi del programma di sostegno finanziario, ma deve a sua volta garantire un piano di riforme che verrà presentato proprio oggi alla Troica, e c'è grande nervosismo nel partito di Tsipras che lo accusa di non mantenere le promesse elettorali. In tutto questo le borse hanno continuato a viaggiare in positivo, con l'eccezione della giornata di venerdì. Ha brindato però la borsa americana, che insieme a Tokyo continua ad aggiornare i suoi record. Per Tokyo si tratta di record che non si vedevano da 15 anni. Bene anche la borsa italiana, ai massimi della scorsa estate, con le banche popolari ancora in evidenza, in un clima favorevole alla riforma che riguarda il settore, che secondo gli operatori è destinata ad ottenere efficienti aggregazioni in Italia. Intanto, al Sole 24 Ore, il ministro Padoan promette Poste e Ferrovie sul mercato entro quest'anno. Sul fronte obbligazionario abbiamo una ricca settimana di aste di fine mese. Sarà interessante vedere come verranno prezzate, considerata anche l'evoluzione della crisi greca. E adesso diamo uno sguardo agli altri appuntamenti della settimana. Continua la chiusura per il capodanno locale del mercato cinese fino al 25. Dagli Stati Uniti è atteso un intervento pubblico di Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, alla Commissione bancaria del Senato e della Camera sul bilancio della politica monetaria. Sempre dagli Stati Uniti arriva la nuova stima del PIL del quarto trimestre e Mario Draghi parla mercoledì al Parlamento europeo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Dopo la lista Falciani, l'accordo fra Italia e Svizzera contro l'evasione fiscale. Questa volta sembra veramente che i paesi facciano sul serio, e soprattutto la Svizzera sembra che faccia sul serio, nel porre fine al mercanteggiamento dei capitali qua e là per l'Europa, solo al fine di pagare meno tasse. L'accordo, firmato proprio oggi dal ministro Padoan e dalla sua controparte svizzera qui a Milano, segna infatti una svolta importante, non solo per la caccia all'evasione, una delle piaghe peggiori di alcuni paesi occidentali, ma anche per dare maggiori strumenti all'Agenzia delle Entrate per andare a verificare contribuente per contribuente, nel caso in cui ci fosse la necessità di un accertamento, qual è la reale consistenza del patrimonio in casa e fuori d'Italia. È importante questo accordo? Lo è certamente, perché consente anche alla Svizzera di uscire dalla famosa blacklist, la lista nera dei paesi che coprono l'evasione e che quindi rischiano sanzioni dagli altri paesi internazionali. Ma un ultimo punto: questa storia ci ricorda anche un altro aspetto. Avviene proprio nel giorno in cui la Grecia è andata al termine delle trattative con l'Europa. Uno del cuore degli accordi è proprio l'evasione fiscale. In Grecia sono 30 miliardi, in Italia sono 250 miliardi. Non che i greci siano più virtuosi di noi, perché il loro patrimonio, il prodotto lordo è sicuramente più basso del nostro, ma è una piaga che sembra accomunare tutti i paesi più resistenti alle riforme. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.